un'evasione per 80 milioni di euro grazie a false fatturazioni e all'evasione dei contributi per oltre 900 lavoratori impiegati all'aeroporto di Malpensa e nel montaggio di palchi per concerti. La notizia sarebbe rimasta confinata alle ultime pagine dei giornali se non fosse per quest'ultimo particolare. La scoperta è infatti avvenuta subito dopo il crollo di una struttura del concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria, che ha provocato la morte di un operaio. L'operaio in questione, come quello morto pochi mesi fa allestendo il palco del concerto di Jovanotti, era un lavoratore regolare, ma i due eventi hanno scosso molto gli addetti ai lavori. Che sta succedendo? Si sono chiesti i cantanti e non solo loro. E così è stato lanciato l'allarme contro la giungla lavorativa nell'organizzazione di grandi eventi, con la scoperta di due cooperative rinnovate in provincia di Milano, la Corsica e la CTS, che davano lavoro a 930 persone nell'area a cargo di Malpensa e nei lavori di facchinaggio e di montaggio delle strutture necessarie a concerti e grandi eventi. Nel complesso 570 persone sono risultate, secondo la finanza, completamente in nero, mentre ad altre 360 erano stati versati solo in parte i contributi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.